preparandomi a svelare la soluzione del quiz di quest'oggi, vi chiedevamo, in questo nuovo film dedicato a Bob Dylan, I'm Not There, Io Non Sono Qui, chi è l'attore o l'attrice che interpreta il personaggio di Bob Dylan? L'ipotesi A ipotizzava Bob Dylan in persona. Sì, potrebbe essere logico, ma non è questa la risposta. E allora forse è giusta l'ipotesi B? Bob Dylan è interpretato dal fratello gemello di Bob Dylan? A dir la verità non sappiamo se Bob Dylan abbia un fratello gemello. Lo sappiamo, non ce l'ha. Non ce l'ha, colpo di scena. E allora vittoria per chi ha scelto l'ipotesi C. È una donna a interpretare Bob Dylan. Colpo di scena. Per la precisione Kate Blanchett. Tra l'altro le prime critiche che arrivano su questo film sono molto positive a quanto riguarda proprio la scelta di far interpretare il giovane Dylan ad una donna, perché la somiglianza tra la Blanchett e il giovane Dylan è veramente impressionante. A quando un film sulla sua carriera, Frick? Non lo so, ci sto lavorando. E chi la interpreterà? Beh, forse Mick Jagger. Bisognerebbe cercarlo. Probabilmente George Clooney. Sì, l'assomiglia un pochino, forse gli zigomi. Sì, va bene, grazie. Ma vedremo, ci stiamo ancora pensando, ci lavoriamo. Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan, per ricordare il test attitudinale dedicato a lui e al suo film. Ultima mezz'ora di diretta, me la stavo chiacchierando con Frick, perdonatemi, sono le 8:34 minuti primi, puntata 115, delirante come al solito, vediamo di fare qualche saluto veloce, la nicchia vincerà, rock and roll. Klaus, Teo, salutiamo anche piccola Kirk che compie gli anni domani, Vispa e poi un paio di messaggi dedicati al nostro amico Enrico che ha sdoganato allora la rubrica dedicata ai calendari self-made. Si sente la mancanza del nostro edicolante di fiducia, mi sono ammosciato, viva le tope, cavie. Un saluto a Fa, alla Cri, anche lei dice: Ariele, ci mancava il calendario del self-made man Enrico. Quasi quasi preferisco risentire Lascia che sia cantata da voi. Un saluto anche a Marta che dice: mi ha sognato Ha sognato il DJ Ariele, che già Marta non gioca a tuo favore. Nel sogno proponeva di inviarci un dolce direttamente in radio e io con una scusa scema avrei rifiutato l'offerta pure scocciata. Guarda Marta, qui quando si tratta di dolce o salato a pane, burro e rock and roll accettiamo qualsiasi cosa, sappilo. Abbiamo R75, in un momento di tristezza scrive: dove sono tutti quei bei cappelloni? Che fine ha fatto la mia generazione? Nei locali ci sono tutti ventenni beati loro e io mi sento fuori luogo. Safem, no, R75, ripigliati davvero, non sono domande da porsi. Mentre in molti avete commentato il concerto di questa sera dei Rush, in tanti hanno scritto: sento emozione nei vostri messaggi, siete pronti per questo concerto. C'era anche Oscar che chiedeva: Ariele, me lo regali tu un biglietto o devo scavalcare? Tocca scavalcare, Oscar. E anche il nostro uomo che corre, Runner67, che commenta: oggi sarebbero stati 10 anni di matrimonio. Per festeggiare lo scampato pericolo, stasera vado a vedere i grandissimi Rush. Keep on running. E allora per tutti voi, la versione di Summertime Blues, per l'appunto interpretata dai Rush. Ancora 24 minuti di pane, burro e rock and roll. Allacciate le cinture di sicurezza. Summertime. Summertime blues. abbiamo preso un accordo con questa radio di Tokyo per la quale sdoganiamo il heavy metal nipponico. Freak, viste come sono andate fino ad oggi, oh, facciamo che ci piace. Sennò ma questo... sì, è molto interessante avere la classifica nipponica sott'occhio. Sì, è un dai. Filo meno interessante che tutti i giorni questi qui poi si strafiggono con la spada. Questo sì, però sono strani, sono diversi. Già compone il numero, da Milano torna il collegamento con Tokyo, dovrebbe essere con noi il mitico DJ Testikazu. È un'altra cultura. Sicuramente, guarda, un'altra cultura. Sentiamo se c'è qualcuno in linea. Milano chiama Tokyo. Hello? Oh, bentornato. Bentornato sulle frequenze milanesi di Rock FM. Lei... Benvenuti a Cacchio Radio Tokyo. Salve, lei è... radiofonica giapponese di rock and roll. Rock and roll giapponese. Quanto entusiasmo, complimenti. Fantastico. Complimenti vivissimi. Ci piace un sacco questo gemellaggio, lo sa. Arigato. Il mitico DJ Testikazu. Testikazu non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta? Non sta bene? È indisposto. Quindi Testikazu. Buona giornata allora a Morimoto. Buona giornata. Complimenti anche per il suo italiano, sì. Molto buono. Non se la canti, Morimoto. il suo nome significa qualcosa? Ti auguro una lunga e felice vita. È in questo clima positivo. Guarda, Morimoto, è in questo clima che vorremmo affrontare la puntata di quest'oggi. Se vuole, sento già in sottofondo. Oh, che bello! Senta, sì. Che energia! È un pezzo. New entry. Classifica rock and roll. Heavy metal. Come si chiamano? Yosu Maigeri, senta che energia! Morimoto, come si può tradurre il nome di questa band? Yosu Maigeri? Sì. Grosso calcio su cose che tu utilizzi per riprodurre! Ecco, capito. Una metafora! Comunque, guardi. Una simpatica metafora. Morimoto, questo pezzo spacca, da noi si dice così, sì. Spacca, è roba forte. Tu lo dici vero. Sì, heavy metal alla grande. Tu lo dici vero tu, Buccio. Sì. No. Morimoto, intendiamoci, questo pezzo è veramente bello. È tosto, Buccio, sì. Bugia, Morimoto, tu non piace questo pezzo. No. Morimoto, non iniziamo, per favore questo. Morimoto, un falachi. No. Morimoto, la smettiamo con questa cosa. No. Ma ecco. Non c'è ragione per farlo. Il pezzo ci piace. No, resta in linea, Morimoto, per favore, non facciamo saltare il collegamento con... Eccolo. E basta però con sta storia. Strana. In effetti è strana, lo riconosco, però. Però c'è la coda di paglia, perché non gli abbiamo detto che non ci piaceva stavolta. Sì, ma sono tutti un po' uguali. Hanno queste reazioni definitive. Vabbè. E beh, che c'è? Beating my brains. torna sola. Iggy Pop, l'iguana nella diretta di Pane, Burro e Rock and Roll. Allora, sono contentissimo che la redazione mi ha rintracciato questo radioascoltatore milanese che tra poco vi presenterò a Pane, Burro e Rock and Roll, perché in 115 puntate di diretta devo dirvi che la cosa che più mi affascina dai vostri messaggi, dai vostri commenti, sono quei messaggi che mi arrivano dai genitori. Genitori di figli piccoli, genitori che ovviamente ascoltando Rock FM sono per forza dei veri rocker. Mi fa impazzire questi messaggi dove si capisce la vostra grossa preoccupazione nella crescita dei vostri figli, la vostra grossa preoccupazione, e se non dovessero poi diventare dei rocker, questa cosa vi strugge la vita. È una domanda fondamentale che si pone anche Daniele da Milano. Sul pullman ancora? No, sono sceso, vai, e sto congelando oltretutto, ma non è un problema. Daniele lo fa solo per Pane, Burro e Rock and Roll e ti ringrazio da subito. Prego, segnalo, prego. Mi diceva in fuori onda che è il patentato 209, quindi complimenti. Grazie. Dove l'hai presa? All'Alcatraz o agli... No, a Cascina Molluè. A Cascina, quindi una delle prime, esatto. Sì, bravissimo. Sì, esatto. Allora, Daniele è genitore, un giovane genitore, il suo piccolo Nicola ha 12 anni, giusto? Giusto, giusto. Esattamente. Prima di dire quello che andrai a fare quest'oggi, come cerchi di farmelo diventare un vero rocker, Nicola? Quali trucchi stai utilizzando? Ma io lo sto bombardando di hardcore superstar e Motley Crue tutti i giorni, quindi vediamo se riusciamo a sortire qualche effetto. Senti, spero di non mettere un dito nella piaga. Tua moglie appoggia questa cosa? No. Aia. Aia. Che gli fa ascoltare tua moglie? No, mia moglie, cioè, oddio, vorrebbe fare ascoltare qualcosa, ma io evito in tutti i modi. Bravo. Ci sono delle guerre interne in casa. Mi sento di appoggiare questa tua decisione. Ci sono cose per le quali il maschio deve avere i pantaloni. Oh, perdonatemi, sulla musica sceglie il papà rock, soprattutto se la mamma non lo è. Ok. Passiamo al momento epocale. Daniele quest'oggi segnerà la vita del suo piccolo Nicola. Come? Andando a comprare la sua prima chitarra elettrica. Attenzione. Dal messaggio che mi hai scritto, sì? Si leggeva la tua preoccupazione del fatto che molto probabilmente sei più emozionato tu di lui. Eh sì, perché come stavo dicendo prima del fuori onda, mi aspetto tipo ormai anche già delle mega tournée alla Motley Crue, cose assurde. Da lui mi frega un cazzo probabilmente. No. Cioè tu ti vedi già Nicola sulla copertina di un LP che sfascia le chitarre, invece non si sa. No, senti, Daniele, devi essere onesto però, eh? Dimmi. Nicola, ti ha mai detto: papà, mi compri una chitarra come la tua? No. La mia esagerazione non è ancora toccata. Daniele, sii onesto. Quando tu in casa tua ti prendi, mi hai detto che hai una chitarra tu, no? Sì, esatto. Da tamarro, tra l'altro, diciamolo. Esattamente. Una cos'hai? Una Gibson? Una Gibson Zakk Wylde. Zakk Wylde, tamarrisco. Alla Edo Rossi, cito il collega. Quando tu stai lì in casa tua e ti spari i tuoi soli, Daniele ti ha mai guardato con gli occhietti come dire: papà, come sei bravo? Cioè, probabilmente mi guarda un po' stranito, come sei bravo, forse no. In ogni caso, noi di Pane, Burro e Rock and Roll siamo con te. È giusto comprare la prima chitarra elettrica, Nicola. Gliela farai scegliere a lui? La sceglierà il tuo portafoglio o sceglierai tu un'altra chitarra da tamarro, tipo una Flying V da metallaro? Ma io vorrei prendere una Flying V da metallaro, no. Però sa che sceglierà il portafoglio in questa situazione un pochino, però vediamo. Flying V secondo me esageri. Daniele, in amicizia, io partirei con qualcosa di tranquillo. Fai scegliere a lui, magari il colore che gli piace. Ah beh, dai, quello sì, ok, non andiamo su fiamme o cose del genere. Mettiamo che nel negozio di strumenti musicali Nicola impazzisca per una batteria, come ti comporteresti? Guardalo qui, coda di paglia. No, gliela devi comprare. Scusa Daniele, sei un rocker, se sceglie la batteria.

Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Vice sindaco? Beh, basta, così, mi segua al commissariato, prego. No, no, no, attenzione. No, basta, ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino lontani, prefetture. Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col terapiatapioca. Che dopo... succede, Paolini? No, nulla, buongiorno, signor Necchi. Buongiorno. Ciao. Questi signori hanno voglia di giocare. Ciao. Ma che sono amici sua? Ma certo, Paolini, suonavano per avvisarmi, via, abbia pazienza, solo due colpettini, così... Paolini, non vorrà mica farne una questione. Pia, lei è sempre stata una persona ragionevole. Oh, bello, è capito, si farà finta di passare da bischero. Bravo, ecco, Paolini, entra, ecco. Bravo. Chuck Berry, ritardissimo, arriviamo alla chiusura del programma, 20 secondi alle 9 precise per l'orologio di Rock FM, eh? Prendetela così. Pane, burro e rock and roll. Anche i nostri orologi sono rock. La tua colazione rock. Tornerà domani mattina. Pane, burro e rock and roll. Ovviamente dalle 7 alle 9 su Rock FM con l'Ariele, Spadino e Fricantoni. Ok? Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. No, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. E ogni giorno alla mattina, quando arrivano le 9 precise, adesso c'è Marco Gravelli presente, ci sono secondo me il tempo giusto, però è quello, cioè tu attacchi alle 9, sì, adesso con noi di Pane, Burro, Rock and Roll, giusto, o è più giusto che ti salutiamo alle 9:01 e poi tu attacchi alle 9 il tuo programma, come si dice a Milano, lei stessa. Buona giornata, Gravelli. Grazie. Ci risentiamo domani. Ciao. Ehi, Frigo, dimmi, Rogna. Sai, ti posso fare una confessione? Vai. Pensavo, Che fare le cavie forse rimanga tra noi. Tutto sommato, non è poi così male. Dici? Sì, sì, dai. Pensa solo al fatto che ci imbottiscono di droghe dalla mattina alla sera ed è tutto legale. Pensa invece che un umano deve andare al parchetto della stazione, cercare un pusher in camuffa, pagare un botto di soldi e poi se lo becca la polizia rischia pure che lo mettano dentro. Che sfigati! Sì, gli umani, che sfigati!